attenzione 10. Attenzione sul canale 10, c'è qualcuno. Hola. Ciao Alan. Se scendo male. Oh. Vibra tutto, boh, non lo so. Chi sei? Cipici. Attenzione, canale 10. Sveglia! Oh, Lillo, butta giù la pasta che è pronta. E come te la vuoi? Al sugo, all'olio, oppure come la vuoi, frutti di mare. Ma se te lo già mette mezzo la giamata? E grande. Assura. Ah, tu vedi, perché stavo cantando, ero su un contest, stavo facendo la gara di canto, per quello ho chiuso, ma non sapevo che eri tu, la telefonata non mi dava il nome, capito? Ehi, ascolta a me, ho comprato qualcosa, niente da fare, non funziona, non accendo. Allucinante, comprato anche le lampade, cazzo, 70 euro, cazzo, lampade. E anche il neon è cambiato. E allora uno sì, l'altro era buono, ma i neon non c'avevano niente comunque. Ho cambiato qualcosa là e niente, collegato tutti i video in luce. Te l'ha fatto Tonino? E allora, cazzo di robotto, cazzo di elettricità. Praticamente allora non è l'attore. Allora, come cavolo si chiama? Non lo so, quello che si attacca a Baionetta, non mi ricordo come si chiama. Magari è quello lì. E cos'è che si attacca a Baionetta? È come dirtelo, rimane cilindrico. Una specie di cilindretto là, che si attacca a Baionetta. E quello lì fa funzionare le luci proprio, capito? E quello lì è che abbiamo cambiato, allora lì quello era assolto proprio. E allora ha bruciato la centralina. Ma che cazzo ne so, non lo so, va. Ma non so, ha giubilato, giù perché in vendita, mi sono rotto il coglione. Ah, una gazzata lo vuoi vedere. E cazzo, vedi una gazzata, o già, mi viene nervo a me quando... fantasia quando inizia ad andare le cose male, cazzo. E io cosa devo dire, che la GPS 200 lampade così, cioè cazzo, ho comprato tutto, tastiera, monitor, tutto quanto stava funzionando bene, poi dico mi si è bloccato il computer, cazzo, ma mi sono convinto di tutto, a chi mi sono rotto le balle brutto. Vabbè, quando deve andare male la cosa è allucinante. Ma 70 euro come le spese, scusa. Allora, 44 quello che dove attacchi tutti i cavi dell'impianto. 44 euro. Poi ho preso la lampada, 20, cos'era? 20, 22 euro. Attenzione, attenzione, prego. C'è qualcuno da... 66. Aspetta un secondo che stanno chiamando un attimino, Manuel. Avanti! Buonasera, non so se mi copiate, sto facendo una prova radio per trovare un apparato e volevo parlare con qualcuno da Sierra Sierra per verificare l'efficienza dell'antenna di trasmissione, grazie. Sta arrivando molto basso qua, Ti ascolto proprio pio pio. Arrivelo QRM. Attenzione, brecco, c'è qualcuno da Sierra che mi copia? E io ti copio, ma bassissimo, dove sei? Mi trovo a Alghero, barra mobile, sto provando un'antenna e anche una prova radio. Cappa, gli arrivi ma basso, capito? Secondo dove ti trovi? Arrivi molto basso, non lo so se tu hai collegato bene tutto, perché mi sa che non c'è massa in quell'antenna. Ho capito, prova a vedere adesso se recuperiamo qualcosa regolando l'accordatore. No, negativo, sempre lo stesso, sempre basso. Tu come lo senti, Manuel? Sì, ho proprio terra a terra, già che c'è un'antenna a cazzo, a al muro. No, a me non mi chiamo per Marco Smitter, è solo di radio, lo sento. Lo sento che parla, ma non capisco la mano. Devi andare in una zona alta per sentirti, capito? Devi andare in una zona alta, di modo che ci ascoltiamo. Ok, ok. Grazie per il momento, cercheremo di regolare al meglio il tutto. Comunque, gentilissimo, ti ringrazio tantissimo. Capo Fabrizio, dai, doppio lungo da questa parte. Non muovi manco l'ago dello smitter, capito? Sono la radio, sento. Va bene, dai, buona serata, se vuoi restare, resta, non c'è problema, noi siamo qua. Avanti, Manuè. No, ti ringrazio, Già. Moro ancora, sono un po' impegnato. Ti ringrazio gentilissimi comunque, la prossima, grazie. Adesso sei arrivato più forte di radio, ma non è che avevi il microfono troppo lontano dalla bocca? Probabile, adesso forse me l'ho avvicinato un po' di più adesso il mic. Adesso la radio è decente, però il segnale è sempre basso. Il segnale magari ci vorrebbe qualche vitamina, magari, qualche cosina in più se riusciremo più avanti. Kappa. Mi devi scusare qua. Stavo guardando l'altro apparato, invece sto usando quello di giù. Prova di nuovo. Ciao, comunque, saluto ancora, ciao, adesso va bene, dai. Stavo guardando lo smitter dell'altro apparato per sbaglio, invece stavo usando l'altro. Ok, comunque adesso arrivi bene. Avanti, Manuele. Stavo dicendo già, tu non ce l'hai per non rimanere al buio l'acquario, quelle lampade a neo o a LED, quello che sia. Non le ho, ma le vendono i cinesi. Vai, dai cinesi la compri una, è di quelle che adesive che si attaccano, e la metti all'interno e si vede tutto l'altro. Cioè, ci sono quelle cinesi, io ce l'ho nell'apparato, dove c'ho gli apparati, ce l'ho blu io. Ah, non quelle, cazzo, ma anche il Torino non fa luce, non si vede una massa. Cazzo, ma un vicino. No, questa che c'ho io la fa la luce, e come? Se no ti mando una fotografia a buio. Allora, io voglio mettere quelle che si mette dentro l'acqua, no? Che di attaccare quelle che puoi mettere dentro l'acqua, ventose. Io ne ho una, però è azzurra, non mi piace. Guarda su internet se ne devo. No, io non le ho, io ho le normali, ho i neon normali, i neon che si usano per gli acquari. Ne ho uno solo e illumina tutto l'acquario, si mette al centro. Ma qual è? Quello normale che si usa negli acquari, quello che rimane sul violetto, rimane da una specie di rosastro violetto, un colore così. Perché io sono andato anche lì a Quaso, cazzo, 120 euro, quelli che si attaccano, che si appoggiano alla vasca. Quelli senza coppia, che a me non piacciono quelli. Quelli che si appoggiano alla vasca, che c'è una specie di scappello. Ma cosa roba di soldi, passami lì. Dovessi mettere qualcosa di arrangiato. Io avevo preso i neon, ho preso sia la centralina nuova che neon, mi si era bruciata la centralina, l'ho presa nuova, dove si attaccano tutte le spine e tutto quanto, quella lì l'ho presa nuova io. Cazzo, ascolta, ma chi è che può riparare questo cazzo di cose? Ma ce ne sono, non conosce nessuno? No, su quelle cose no. Non conosco proprio nessuno che può ripararti. Prima, guarda, c'era quel mio amico Davide, che ce l'aveva via Sio Cervi, il negozio, quello era fornito di tutto, c'aveva tutto quello che cercavi, ce l'aveva. Era molto fornito, mi dispiace che abbia chiuso. Devo mettere un'acqua, devo mettere quelle lampade come ho io, quelle avventose che lo puoi mettere in massa nell'acqua. Quelle sono quelle isolate dall'acqua, se le puoi immergere nell'acqua. Solo che blu quella lì. Ne devo cercare una, mi sa che vado a Porto Torres, quando sono di riposo, lunedì, da quella cinese lì a Cinecastruida. Dove piazza a prendere il pesce. Se ne hanno. Ah, quello lì c'ha il pesce a malapena, guarda, non ne ha di quelle cose. Non va andare in manca a chi non ha. Deve andare in un negozio specializzato di acquari e queste robe qua. Mi sa che ce n'è anche un assorso che vende pesci, roba del genere. C'era anche a Porto Torres, però a Porto Torres non c'è più, non c'è più, che sappia io non ce ne sono più. Prima ce n'erano due o tre, poi erano tutti chiusi, boh. Non so dove indicarti, cazzo, cioè in questa zona qua, se no guarda su internet, in tre giorni ti arriva la roba. Guarda, magari su... guarda dove vendono queste cose qua, magari lo trovi anche a poco prezzo, perché qua roba che vendono su internet la paghi anche 30 euro in più qua, oi. Guarda, già lo so, se cazzo costa ma 35 euro, me l'ha fatto pagare cazzo quasi 50 euro questo coso. No, cosa è la bugia mia? 15 euro costava, non 35. Infatti lo gonfio. Ma adesso che a Sorso mi sa che ce n'è uno che vende pesci, tutta questa roba qua. Però non ti so dire dove. Ma sai che lo cerchi su Google, negozio di animali Sorso, e te lo dà. Perché a me mi gira il coglione a venderlo, cazzo. Mi gira proprio il coglione a venderlo, perché cazzo ci ho preso su. E poi se lo vendo lo vogliono gratis. E poi mi tocca buttarcelo da una finestra direttamente. No, non è bene, per una cazzata ti vedi l'acquario. E già si risolve il problema, in un modo o nell'altro lo risolvi. Guarda su internet e lo sbagli e lo trovi, vedrai che le trovi quelle lampade lì, ci sono anche quelle che si applicano, niente. E se no cambi tutto quanto la struttura per l'illuminazione e basta, tu hai fatto il gioco, come ho fatto io, ho cambiato tutto. Io ho comprato, però per me è diverso, non è scatolato il mio c'ha dei vani dove va appoggiato e ce l'hai a vista, capito? La mia è diverso mio, cioè. Ma com'è possibile che ha fatto cosa? Ma qualche cosa attaccata, c'è cioè, vivi e cosa? Ma che è strano che abbia fatto corto, Cosa piace a me di lì? Così stava già partendo, cosa messo lì? Ha fatto un botto, ha fatto un puff. Pensavo che erano fatte le lampade. E adesso il gas, abbiamo smontato il tonino, il gas è asciutto, proprio gonfio era. Era fuso, magari ha bruciato anche le lampade, l'è presa una, no, non funziona. Sono messe nuove, non funziona. Se tu sei un'idea, ha giubilato pure le lampade. Che fottitura. E la cosa... Non sarà dove attacca la spina, roba del genere, no, il filo. No, perché il filo è collegato col coso della pompa. Io attacco solo un filo. Attacchi solo un filo, è collegato tutto, sia pompa, riscaldatore, tutto. Ah, io invece ho la centralina che ha gli attacchi come le prese del muro, così, no? E tu attacchi le spine, devi attaccare quello che vuoi, ne ha un bel po'. Ne ho solo tre occupate, ne avrà 5 o 6. E per attaccare... Sì, che si è scelto un po' male di radio. Cosa? Cioè, deve essere la batteria scarica. Forse ho premuto male il tasto io, guarda vedere. Adesso va bene. Ho premuto male il tasto probabilmente, l'ho premuto troppo piano. E già si trova, dopo darò uno sguardo anch'io se vedo qualche cosa. Di quelli che metti dentro, a ben cosa dentro l'acquario, nell'acqua, capito? Che ce lo metto dentro, in un angolo. L'importante che faccia un po' di luce. Io una cosa così devo cercare, l'altro ce l'ho, ma è cazzo azzurro, come se sia rubuccio. Io io non mi sarei fidato di quelle luci, basta una minima perdita, si pone le mani dritte, se le mani lascia perdere, non le mettere a muglio, metti di quelle normali che illuminano bene tutto l'acquario, perché quelli lì sono direzionali, ti illuminano una parte e poi lascia magari se le mani al buio. Io ti consiglio di mettere quelle al neon di nuovo e basta, tutto lì. Magari c'è qualche cassata che non abbiamo, ma con te Sertorino non riesce a sapere che cosa sia. Ha fatto tutto corretto, tutto a posto, ma non funziona, tutto a posto, quindi collegati come si devono, tutto a posto e non assente. Ma con te se riesce a capire dove non arriva la corrente, mi hai capito? E la corrente arriva, la corrente c'è. Arriva la corrente però non funziona. E allora ha interrotto qualche cosa, c'è poco da fare. Boh, sai cosa cacchio è, magari una fesseria. E cosa cazzo ne so, che era mi cazzo tutta la ricca sua, prima era tutto mangiato e cambiava la lampada, non si acciappava. Alla fine siamo andati a quattro e l'abbiamo trovati lì, e non aveva né giù l'una, non aveva né due. Poi abbiamo piazzato le lampade e avevamo visto un coso che era asciutto. Siamo andati da Elcom a Elcom e l'abbiamo preso lì. Allora, se tu hai cambiato solo una lampada, magari le lampade sono collegate in parallelo. Se essendo scollegate in parallelo non ti funzionano, se ne sono tutte e due che sono, diciamo, che funzionino, capito? Se non, perché se magari sono in parallelo è come le luci dell'albero di Natale, se se ne fulmina una le altre non funzionano, bisogna che le ricolleghi, è così, secondo me sono collegate in parallelo con le luci, magari se li metti un altro neon funzionano. Non lo so già. Quanto sono lunghi i neon? 96 ne sembra. Chicchetta. Devo guardare da quanto è il mio. Tutto male che vada, si presso il mio e controllo a vedere se va bene. Se mettendo quel neon lì funzionano vuol dire che sono collegate in parallelo. Magari scendi di gabbo e non riesci a uscire a risolvere il problema. Cosa ne so? Aspetta un attimo, già che stanno suonando la porta. Via. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa, prova. Prova. Prova. Prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3. Ora 1, 2, 3, prova. Ora 1, 2, 3. Ora. 1, 2, 3, 4. E beh, Manuè. Ora 10. CQ, canale 10. Attenzione 10, c'è qualcuno? Ora. Trasmissione, cambio. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, canale 10, cambio. Security X, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sto provando un microfono sul Galaxy, come va? Bene, bene, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora lo devo provare su un altro apparato, aspetta. Andava. Prove tecniche di trasmissione, cambio. Come va questo? Questo va bene, te l'ho già. È chiara la modulazione. E ho provato. stesso canale. No, stavo provando a scambiare i microfoni, quello del Galaxy, metterlo nel bagno e viceversa. Ma la parte, il BBQ4 sotto non ci sta, è troppo stretto lo spazio. No, ma è chiara questa, già va bene, sia una che l'altra. E questo è il BBQ4, modificato da me. E va bene, col Galaxy sì. Sì, adesso col Galaxy. Beh, va benissimo, va benissimo. Ti stavo chiamando, ho detto, boh, ma allora sei messo. E chi? Io ti stavo chiamando, ho detto, deve essere, si è perso, Manuel, forse sei uscito, ora sono andato a chiamarlo. Non ti sentivo. Cazzo, l'altro giorno sono andato a fare un giro a Euronics, ho già. Cazzo, ho visto queste cazzo di televisioni, adesso che abbiamo comprato, uno 85 pollici. Sempre più indesi. Cazzo, io addirittura non devo uscire più, io devo fare trovare in casa, trovare in casa. Buh. Io vado per una cosa, buh. Vabbè, se ti serviva, scusa. Ah? E ti serviva? Mi serviva, già ce l'avevo, non è che non avevo televisore. C'avevo un 32 pollici in sala, no, un 50 in sala e un 32 in camera. Solo che ho detto, cazzo bello, mi piace troppo, va bene, cazzo, ma se ne è. Sono andato dal sito, gli ho detto quanto veniva per fare avanti tutto quanto. Ho dato i documenti, tutto grande, dopo due giorni mi hanno navigato il televisore. Ma come l'hai messo? Appeso? Eh? L'hai appeso al muro oppure appoggiato? No. Non mi piace appeso, non mi sono mai piaciuto appeso, col mobile. Cavagato. E che marca è? Della Samsung, in pratica questo qui, quando praticamente che mi devi guardare un film, no? Un film o sia il DVD o dalla televisione, se lo prende da solo il colore e l'immagine. Ah, ecco, si auto, si fa l'autoscala, dai. Sì, si porta da solo automaticamente, perché c'era quello normale e quello, infatti la differenza era di 100 e qualcosa. E ho detto, dai, prendo quello lì, tra tutto fa l'assicurazione, tutto quanto, ho fatto l'assicurazione di 6 anni pure, in caso che succede qualcosa. E mi è venuto 900, quasi 1000 euro, sia assicurazione e tutto, e trasporto. E anche quello che avevo preso io era così, però il mio c'ha, si vede in 3D, c'ha il 3D, capito? Puoi vedere il film in 3D. No, lo so, ma anche questo, ma cos'è la roba che fa? Quando mi guardo un film, la carima ha già parlato il cazzo di tutte delle macchine, di farsi un furto, pare che gli tratta la macchina. Beh, qui Samsung non ce l'è, come Samsung e Panasonic, allora la Panasonic dà il pezzo alla Samsung e alla Sony. Le buone marche sono LG, Panasonic, Samsung, poi c'è anche Akai, cioè buona Akai, però preferisco la Samsung, preferisco al 100% la Samsung. Infatti mi fa l'LG, mi stava dando l'LG, ho fatto no, ce l'avete la Samsung, come quello lì grande. E fa sì, ce l'abbiamo, però non è in casa, lo dobbiamo ordinare. E allora ho aspettato due giorni e dopo due giorni mi hanno chiamato, guarda il signor Raghe, la televisione, il corriere, il trasformatore viene tal giorno a consegnare il televisore. Buono. E te la bagagliarate così? Sì, gliel'ho detto io, 100 euro al mese, 100 euro al mese, potevi fare anche da 30, da 50, come ti vuoi dire tu, 10 razze, 10 bollettini. Vabbè, se non c'è altre specie, fai bene, non ti abiti le mani. Sì, non vado nel bar, già, non vado nel bar, non vado, non fumo. Io ho questi spizzi qua, come nei baracchini. Io vado, avevo qualche cosa, ma prendevo baracchi, quando ero più ragazzino. E guarda, c'ho qualche sollino per dire, mi piace una scrivania, mi prendo una scrivania. Mi piace un mobile della sala, mi prendo un mobile della sala. Avanna giù lui da 20 e non riesco a venderli, cazzo. Una Ferpovera e una moderna. No, io proprio sono al completo, con i mobili sono tutto a posto. Addirittura scrivanie ne ho due in cameretta, ne ho due scrivanie, una dove c'è il computer e l'altra dove facevano i compiti i miei figli, no? Una andava in una scrivania e l'altra nell'altra. No, io adesso li ho messi su internet, perché voglio prendere solo la base, grande, lunga, da 3 metri per metterci la televisione nella parete. Ma io l'ho attaccata al muro, sai, ce l'ho attaccata al muro, ma già da un po'. L'ho attaccata al muro perché la mia ex moglie dice graffia il mobile, questo e quell'altro, boom, allora l'abbiamo messa sul muro. Ha fatto una cosa ben fatta, con le canalette e tutto quanto, non si vede nulla. Ma cosa c'hai? Che TV c'hai? Grande ce l'hai? Sì, c'ho la LG, ce l'ho grande, sì. C'ho la LG che c'ha anche il 3D, tu puoi mettere il film in 3D e lo vedi come, per dire, ho ben preso un documentario con i pesci, che un giorno vieni a casa e te lo faccio vedere, ti rimane a bocca aperta. Sembra che i pesci te ne entrano dentro la sala e ti vengono addosso. Ah, no, già lo so, c'ho anche il DVD in 3D, c'ho il CD anche in 3D, ce l'ho anche io, lo so. E un film con la neve, i canteramento, cioè la neve che scendeva e sembrava che fosse in sala, che ti stava scendendo la neve. Beh, sono bene, sì. Io infatti c'è Netflix, qualche giorno, ieri mi ho guardato quei film del mare, cazzo bello, sembrava che eri lì, bello veramente, questi colori azzurri. Beh, allora la LG è quella che fornisce i pezzi alla Sony e anche alla Samsung, me l'ha detto quello che li vede, ci rivede di mezzo, guardi che LG è proprio la casa madre, è quello che pulisce i pesti alla Sassu, e i pesti che ci sono nell'LG ci sono nella Sassu. Sì, l'LG, cioè, l'LG, Sassu, sono uguali, gli stessi componenti sono, è anche quello dove, quello delle urne, si fa uguale, la LG e la Sassu sono uguali, cambiano solo la marca, i pizzi cambiano, i pizzi sono uguali, ma solo le marche cambiano, i pizzi sono uguali, sì, a Sassu, LG, Panasonic, sono gli stessi pizzi che mettono, gli stessi componenti. Sì, l'LG è la casa madre che li fornisce un po' a tutti, capito? Solo che questi 3D non sono andati molto avanti, non hanno fatto molto successo, si trovano pochi film, poche cose, io ho preso documentari del mare, qualche film così, però non se ne trovano tanti. Io c'ho c'avevo 5-6 CD in 3D, che l'avevo comprato insieme al DVD, ma certo già l'avevo, ce l'ho già fatto il corso, 10 anni, quasi 10 anni, sì, un 10 anni ce l'ho, e ho preso il Sansu, il Sansu DVD in 3D, ti legge MP3, no, già è bello, ma adesso lo sto usando poco e niente, perché c'ho, mi guardo Netflix nel programma del televisore. Io c'ho Blu-ray che fa tutto, legge CD, legge DVD, legge tutto qua. Anche Blu-ray è buono, anche quello è già buono. C'è quello. quello lì da tanti anni già, io ce l'ho tanti anni già il televisore, però di quelli ho preso quelli l'ultimo di chilo da quando l'ho preso, era uno degli ultimi usciti, capito? C'erano già un po' di anni, c'erano 5 anni. No, va sempre bene, grazie a Dio, non si è mai guastato, dai. No, già su voi, io almeno cazzo da giuduta, no, uno della Sony, l'altro della Samsung. Infatti quello della Sony che l'ho messo in vendita, intanto non me ne posso nulla, certo ne vuoi. Poi c'è il videoregistratore della Panasonic, anche quello funzionante, ma non lo vendo, è un ricordo. E l'ho messo lì nel mobile. E niente. Ma che la Sony? Cazzo, fa un'ora e mezza se devo uscire, cazzo. Ehi, Emanuele. E io, vedi, ho le cassette, non posso vederle, perché praticamente il videoregistratore pensavo che non si potesse più attaccare a quel televisore nuovo, e si ragionava a fare della nuova, faceva dal videoregistratore, leggeva DVD e anche le cassette. Invece ce l'ho buttato perché tanto non c'era l'attacco per quello lì, e quindi invece poi mi hanno detto che hanno fatto l'attacco per mettere anche i televisori nuovi. E allora, se te l'ho detto anche io che hanno fatto l'attacco, se tu guardi su Amazon, l'attacco per dal videoregistratore alla televisione, e li vedi. Vabbè, ho fatto una cazzata, era nuovo, funzionava tutto, perfetto era. Un peccato, vero, un peccato. Ed era, mi pare, Pioneer. Della Paglia non l'ho mai visto registratore. Ma era Paglia, non era Panasonic, questo non mi ricordo. Comunque era una marca buona, funzionava anche bene. Cazzo, c'ho tutti i film di Dario Argento, io ero collezionista di cassette, e ho scritto anche del video, c'ho tutti i film di Dario Argento. È un peccato, non buttare qui. No, c'è la casa, ma se non busco un videoregistratore che vada a vedere il televisore, cosa me ne porta? E poi a tenere così si smagnetizzano, anche io ne avevo uno, a volte quanto ne avevo il videocassette, ne avevo più di 300 videocassette, la maggior parte si sono tutte smagnetizzate. Davvero? Io rinascio per dire, io già lo sai, te l'ho detto che c'era uguale a quello che c'hai tu, il Panasonic, lo stereo, quello che c'ha 5 CD. Ah, e questo era il mio. È uguale identico al mio, è uguale identico. L'ho portato da Franco Punto Video a fargli pulire le cose delle cassette, perché si mangiava la cassetta appena appena. E gliel'ho portato a fare pulire. Ah, no, il mio è perfetto, il mio funziona tutto. Le cassette dopo tanti anni, ma da un po' di anni, funzionano tutte bene. Quello che mi si è un po', diciamo, è il CD di Gianna Nannini, che a volte si sente male, allora devi passargli l'alcol e si sente bene. L'unico CD che mi ha dato fastidio è quello lì, quello di Gianna Nannini, che c'ho il doppio album, CD, tutte le canzoni, Bello Impossibile, I Maschi, tutte quelle canzoni lì. E a me piace tanto la musica di Gianna Nannini, quindi me l'avevo regalato l'ultimo mio compleanno la mia ex, quindi è un bel ricordo. No, a me qualche cantone mi piace di Gianna Nannini, no, che mi piacciono tutti. No, comunque un bello serio quello. Io c'ho anche quello della KV, uguale a quel modello lì. C'ho quello della GVC, cazzo di serio che manca. Ma noi, quello stereo lì c'ha un pulsante che rimane sulla destra, se tu premendolo ci sono i super woofer, devi dirmi come ti intendi, se le casse sono ancora buone, quello lì, devi sentire come si sente, ma in discoteca. Già lo so, se sono nuovi dei gas, pure lo stereo è nuovo, lo stereo è perfetto, adesso l'ho portato solo a pulire la testina della cassetta, delle due cassette, ma lo stereo l'ho sentito, l'ha già alzato il volume. io lo sai come la pulisco, c'ho un nastro che ha rimane tipo da sposo, li metti questo nastro e si mette a suonare, fa lì e pulisce la testina, sia la testina che quella del CD, tutti e due ce li ho. Sì, ce l'ho anche io per pulire la testa, però si bloccava, adesso c'è qualcosa di sporco, e l'ho portata a pulire, ha detto che me lo faccio e adesso dovrei chiamarlo, no? Settimana prossima. Cazzo, un altro stereo, per carità. Ti metti un negozio, ti vedi, stereo usato. Cazzo, ma se ho venduto roba di... ho venduto due impianti stereo della Kim, sarà 4 mesi fa, due impianti stereo, Allora, ho venduto le casse, poi ho venduto un'altra persona, ho venduto l'impianto disco della CAI con l'amplificatore a CAI. Lui, l'ho venduto, già, per carità. Ma vabbè, ti fai i soldi così, a rottoni, fai bene. Lo so, a volte ci smeni, a volte ci ricavi, la vita è così, a volte ci smeni e a volte ti rientrano tutto in un posto. Vabbè. E tu quando rientrano poi li spendi subito. Cazzo, come se ne sono entrati, cazzo, mi ha sbagliato con la televisione. E ho fatto bene. Meglio vedo che c'è tu parati di già isso. Beh, questo sì, questo poco ma sicuro. Allora, ma non sarà un televisore che ti rovina, ma io la verità, quello che mi devo prendere è la matrice nuova perché non mi sta più entrando l'acqua, non mi sta praticamente l'acqua secco. Già devo mettere io l'acqua dentro il coso, dentro la vaschetta per far lavare la roba. L'ho fatto una volta, ma adesso la devo cambiare per forza, solo che c'è un problema, che quando io avevo messo la porta a soffietto, avevo messo anche un armadietto dentro, avevo messo la porta a soffietto per avere più spazio, no? Perché poi ci ho messo delle mensoline dietro, se no se aprivi la porta toccava le mensoline. L'ho fatto fare la porta a soffietto e allora non si passa più la lavatrice, devi smontarne tutto, mobile, smontare la porta a soffietto per far passare il mobile, un casino. Che cazzo, Aurorex ci sono in offerta e poi ce le danno senza buttare a paga, poi a pagare e paghi a novembre. Lo so, ma a me non mi piace così, a me mi piace compararla, andare di là e fatelo io, non mi piace andare così, no. Cioè, l'ho fatto anche io, però è preferibile pagare i contatti, devo capire, tanto a ce ne faccio il dolore, dice chi sono. Sì. E vabbè, ma non se ne accorge neanche, se non è andato a piccolo prezzo, se prendo una matrice prendi a 400 euro, 300 euro, cioè cazzo, canta di varo mese, ma prendi una pizza. Ah, quello sì, è vero. Perché quella vuole qua, funziona tutto, ce l'ho, guarda, a dire poco ce l'avrò 20 anni per la matrice. Avevo cambiato il cuscinetto e poi dopo che ho cambiato questo cuscinetto non ha dato più problemi. Adesso ultimamente si sente l'acqua che scende e non capisco come cavolo faccia a non entrare lo blocco. C'è qualche cosa che la blocca, ma non è scendere bene in terra di acqua, io non capisco dove va a finire. Ormai c'è l'età sua, allora ma da giorni che non ha più gana di andare. Ma a me il tecnico mi ha detto che questa qui è una Whirlpool, quella che c'ho io. Il tecnico mi ha detto se vuoi la può anche cambiare, ma se la cambia così non ne trova più, perché adesso fanno tutti di granaggio in plastica, questo c'ha tutto oblò e acciaio, tutto in acciaio c'ha. Adesso le fanno tutti in plastica i granaggi, si sgranano subito, dopo un anno ce ne butta. So che si usa eccetera, non si fa, cioè non si viene la pa. Hai visto che costano poco adesso la matrice? allora cosa non mi fece dire, io non cosa l'ho più di tanto. Poi questa qui è la Whirlpool, quando ancora la Whirlpool era aperta, adesso ha chiuso, c'è anche al Piducchio, quello di fronte a ex città mercato. Quello lì c'ha tutte le lavatrici fuori, deve essere che la Whirlpool quando ha chiuso, lui se ne ha prese tutte quante, tutte insieme, capito? Ne ha preso una giornata, ce ne ha ancora tutte fuori, solo che lasciandole fuori si rovina. Ah, c'è un padre quello lì, che è un cazzo, un coglione, quello, un ladro quello lì. Quelle sono tutte lavatrici rigenerate, sia frigoriferi, lavatrici. Io ho preso il frigorifero, per carità, c'è la prende per sbattere in testa il frigorifero. 350 il frigorifero. Non gliel'hai detto, non hai garanzia. Ragazzi, ti dà la garanzia, ma non te ne dà la garanzia, che pensi di me. Dal giorno gli ho fatto la croce, anche se no era da bigliarlo e punirli con un capannone, hai visto? Però ho detto con la scheda che non andava, vabbè. No, questo era, quello con la scheda che non andava era un altro, ma l'aveva venduto. Questo qui l'avevo preso nuovo, però sono nuovi, però sono rigenerati, capito? Come le lavatrici. Ecco. Ma rigenerati in che senso? Se sono nuovi non c'è bisogno di rigenerare, saranno usati e rigenerati. Sì, usati da poco, rigenerati, ho fatto il sistema della compressione, che cazzo del gas e balle varie. E va tanto di dare di roba che mi dura la natale a Santo Stefano, la Vascimbo, e questo qui non va bene, questo che compra. Sì, va bene, però mi esce il ghiaccio, mi esce un bel ghiaccio dal frigorifero, non so perché, infatti dovrei dirlo a Franco, uno di questi giorni lo chiamo e glielo faccio vedere, ma secondo me c'è poco gas, anche per quello. Ma a me il ghiaccio non me ne ha mai fatto, io vi raggio un mediano, no? Io ho preso di quelli enormi, i frigoriferi, quelli grandi, più enormi, c'ha sia il congelatore grande che il frigorifero, però ghiaccio non me ne ha mai fatto, è autosbrillante il mio. Sì, ha già giudizio, lì si va solo con destra, è un trofarore, buh. Anche un amico mio si è preso la lavatrice, ha durato un cazzo una vita, ed era in garanzia e non ha ciambato un cazzo con capo di ghiaccio. Sì, no, si dice una ravviazza, lo vedi, già. Mi sono presente qua, cioè da prendere fa cambiare la testa, ma infatti non li voglio più un cazzo da lì. Adesso se quando mi finisco di pagare il televisore me lo compro uno, se la prendo in culo. Vado all'euro, all'euro, all'Euronix e me lo prendo lì. Conviene qua, poi una volta la spesa da bui, ma tanto più o meno lo paghi lo stesso, mica, già dico di non paghi. Più o meno ti viene lo stesso, qui sei da solo, te lo puoi prendere anche normale invece che quelli grandi grandi. È normale, no? Piccolo piccolo, quello normale, medio, dai. Io ce l'ho grande, vabbè, ce l'ho da quando ero sposato, quindi l'abbiamo preso grande perché eravamo in quattro, quindi. Però quando uno è solo può anche diminuire. Per dire, lo scaldabagno vi lascio da 80 litri, cosa ne vedo 80 litri? Non li consumi facendoci il bagno, le docce, non lo consumi 80 litri. E a me mi bastava anche da 60, invece l'ho rimesso da 80 e ho fatto male. E vabbè, tanto non ti succede niente, ma che li stiamo andando, dai. Lo so, però per scaldare l'acqua 80 litri ci consuma di più, per scaldare 60 consuma meno. Guarda, già lo so. Vabbè, già, io ti saluto, sono già le 8, che mi preparo, mi guardo un po' di televisione, mi sdraio un pochettino, che alle 9 si deve uscire, 9 e mezzo si deve uscire. Dai, buon lavoro. Io adesso vado giù a portare il cane che già tardi anche per me, ciao. Ciao, ciao.